come un dojo leggesca, qui che doso la mesca. Siamo ombre sui tetti di un impero sfinito. Sono solo interessi, non c'è amico nemico. No valori non più, noi running senza shogun. Con la M di Mone in fronte come Majin Buu. Li disprezzo in eterno, il mio polso è più fermo. Giro lama all'interno, organi di ogni governo. Senza fare rumori, sveglio la verità. C'ho una lista di nomi come Arya Stark. Da come rispondi, già prevedo dei guai. Tu da come li conti, io so già come li fai. Fango per questi schiavi e sangue per chi fa il bandito. Ciò che sporca le mani rende il lavoro pulito. Sbuffo soffio del drago, grosso guaio a Milano. Ora sai cosa siamo, mostrami ciò che hai imparato. Ehi brada, sarò la tua via, la tua spada. Come la tua ombra in strada. Tu sei nel mio clan, clan, clan. Clan, clan, clan. Oh mamma, ora che ti sei addestrata. Pronta per il brr, tatatata. Lotta per il clan, clan, clan. Siam, siam, siam. Ninja, ninja, ninja. Ninja, ninja, ninja. Ninja, ninja, ninja. Ninja, ninja, ninja. Siamo nati per far sempre l'alba. Fare calma, la vita vera è farla, no parla, parla. Nel fumo denso, nel silenzio, io mi muovo svelto. Se non alzi il mento, vai sul pavimento. O poi sarai scomparso in gabbia, colpi a sacchi di sabbia. Tu confida in me come Don Pablo con la chica, il mondo dei grandi. La strada si tinge scarlata, non c'è pace, non c'è Mahatma Gandhi. Siamo affiliati, nella stessa family. Se si scaldano gli animi, siamo affilati. La mia tecnica è shinobi, rima poetica, cammino al buio, il cuore avvolto dai rovi. E qua non accettiamo tradimenti, se stai con me non menti, controllo gli elementi. La terra sotto i piedi se ti manca, il fuoco quando hai freddo nella stanza. L'acqua se avrai sete e questa aria. Ehi brada, sarò la tua via, la tua spada. Come la tua ombra in strada. Tu sei nel mio clan, clan, clan. Clan, clan, clan. Oh mamma, ora che ti sei addestrata. Pronta per il brr, tatatata. Lotta per il clan, clan, clan.